4C. Ascolta e rispondi. Quella volta che cosa scrivesti? Scrissi un breve saggio. Quella volta che cosa scrivesti? Scrissi un articolo sportivo. Quella sera che cosa leggesti? Lessi una rivista. Quella sera che cosa leggesti? Lessi un quotidiano.